America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Aprirò un business, così mi verrà dato questo, diciamo, visto di lavoro. All'inizio sarà una pizzeria che si trova sulla strada che porta da Philadelphia, va fino ad Atlantic City, dove c'è il mare, dove ci sono i casinò, e è molto trafficata, dunque anche chi viene da New York o da Philadelphia, il costo è sui $150,000. Facchinetti, il nostro Facchinetti, con cui abbiamo aperto la serie solo andata nel contesto di America 24. Ecco, qui Facchinetti a un certo punto, lo ricorderete, chi non lo ricorda, Facchinetti era un camionista italiano che voleva venire a fare il camionista in America. Ha avuto molte difficoltà, a un certo punto si è inventato l'idea di fare appunto una pizzeria. Poi tutto è andato a buon fine, perché poi Facchinetti è riuscito a venire in Nord America, in Canada, a fare il camionista, e quindi di pizzeria non se n'è più parlato. Però le realtà della pizza in America, la realtà italiana della pizza in America, per me resta un fenomeno di grande interesse. E questa storia di Facchinetti che vuole aprire la pizza lungo la strada per andare a Atlantic City investendo $150,000 la trovo affascinante, perché sul mercato newyorkese c'è una guerra di pizze. Avevo fatto una volta una puntata su Pizzeria Roma, che poi ha chiuso, non ha avuto successo, è stata la classica avventura imprenditoriale coraggiosa che però poi non ha funzionato. Ecco, io invece ho una storia di un'avventura imprenditoriale sulla pizza, non partita per fare il camionista, ma partita proprio per fare la pizza, con Rosario Procino, che ha aperto Ribalta, ma che aveva aperto prima anche Chestè, che è una pizzeria che aveva fatto, come dire, un po' di rumore qui a New York. Buongiorno Rosario. Buongiorno, buongiorno. Allora, grazie. Rosario, intanto di dov'è lei? Io sono di Napoli, del Vomero. Ah beh, allora quindi siamo subito con una cosa doc, quindi non è che qualcuno poi dice di Milano, quindi la pizza non è una pizza originale. No, nato e cresciuto a Napoli. Senta un po', lei ha preso un biglietto di sola andata a un certo punto per venire in America, perché questa è la puntata di oggi, ispirati da Facchinetti, che pur di prendere questo biglietto di sola andata investiva $150,000 sulla strada verso Atlantic City. Che impressione le fa di questa idea di aprire una pizzeria sulla strada verso Atlantic City? E poi mi racconti della sua storia, del suo biglietto di sola andata. Cioè, sicuramente è un'intuizione molto interessante. Su una strada di passaggio trafficata, nel momento in cui forse oggi la pizza, io dico napoletana ma italiana in generale, prende sempre più riconoscibilità negli Stati Uniti. Io sono arrivato qui nel 98 da ingegnere per seguire mia moglie, italo-americana, conosciuta in Italia, e dopo un paio d'anni di relationship a distanza sul 41esimo parallelo tra Napoli e New York, mi sono trasferito a New York. Vabbè, quindi c'è una storia d'amore. C'è una storia d'amore. Prima della moglie o la pizza, non lo so. La pizza è nata... Scusi, non fare... Ma la moglie c'è sempre, sì. La moglie c'è sempre. Ci sposati anche dei bambini, magari. Sposati da 16 anni e 2 bambini. Allora questo è un biglietto di sola andata a super lieto fine. Perché... Sì. Per ora sì. Ma lei, scusi, arriva come ingegnere? Arrivo ingegnere meccanico... Ingegnere delle telecomunicazioni. Delle telecomunicazioni. Beh, quindi poteva andare a Silicon Valley, poteva andare in quel quartiere, no? Qui ricordo i primi giorni arrivato a New York, già dall'Italia avevo un colloquio con il TJ Watson, che era il research center dell'IBM. Comunque, diciamo, ho avviato la mia carriera nel mondo delle telecomunicazioni, prima con Telecom Italia, poi con la Telecom australiana. Però dal primo giorno in America c'era sempre quel mi manca qualcosa, mi manca la mia pizza, perché strano a pensarsi, nel 98 quando io arrivai, ancora la pizza napoletana, nonostante gli anni e anni di immigrazione di italiani e napoletani, non esisteva forse a New York. Allora, perché la pizza napoletana, diciamo, è quella che poi ha la parte morbida in centro, eccetera. Ecco, come è nata? Ci racconti il momento preciso in cui lei decide di lasciare un settore importante, una professione importante, una carriera avviata per aprire una pizzeria. Allora, nasce a passi, perché come dicevo, da un lato l'America ispirava proprio l'idea di fare qualcosa di mio, e mi ero prefissato l'idea di avere, io sono arrivato che avevo 28 anni, di avere un business mio entro i 40 anni. A 40 anni poi ho venduto il mio primo business, però l'idea era appunto quella di cercare una strada dove avviare qualcosa di mio, e il mondo della pizza da napoletano mi aveva sempre affascinato. Quindi lascio le telecomunicazioni, con un passo intermedio vado a gestire il commerciale di un'azienda del gruppo Barilla, dove sono stato lì per 6 anni. L'ho preparata dall'esterno finché non ho avuto il momento giusto, ho cercato il personale giusto, l'idea messa giù, studiata, e nasce Kester come idea di portare per la prima volta in modo, diciamo così, forte la pizza napoletana a New York. C'è ancora mercato, il mercato non ha limiti qua. No, assolutamente, assolutamente, perché se ci pensiamo, un paese comunque grande in espansione, giovane, dove la pizza, la vera pizza italiana, magari negli anni 80, la napoletana negli anni, fine degli anni 90, è nata ora. Quindi diciamo da Kester e qualche altra che ha aperto nello stesso periodo è nato il movimento intorno alla napoletana, che oggi è molto trendy. Una domanda. Lei ha aperto Kester, poi Ribalta, adesso se non sbaglio ne ha un altro che si chiama Prova. Sì, Prova. Perché questi nomi diversi? Perché non fare una catena? Ci ha pensato sicuramente, ma... Assolutamente. Kester nasceva con quell'idea di diventare una catena, non l'è diventata per varie ragioni, quindi ho preferito vendere e ripartire da zero con Ribalta, dove oggi abbiamo due Ribalta, una a New York ed una in Atlanta, e siamo quindi cercando di trovare la formula giusta per espandere il concetto. Beh, insomma, allora, biglietto di sola andata, storia d'amore, moglie, figli, pizzeria e adesso anche la catena, ma lei cosa consiglia a chi ci ascolta e che magari considera certi dubbi se prenderlo o meno questo biglietto, perché poi si dice che il sogno americano è molto difficile? Il sogno americano è difficile, è sicuramente difficile, consiglio di provarci, il bello è quello dell'America che ti dà la possibilità di provarci, di seguire il sogno, poi sta a te farlo diventare una realtà. Comunque è duro, però ne vale la pena, ne vale assolutamente la pena, richiede tanti sforzi, tanti sacrifici, però c'è la possibilità e io penso di essere sulla strada buona, sono sicuramente mi sento realizzato sulla famiglia, sul business, però andiamo ancora avanti e speriamo di farlo diventare un sogno sempre più grande. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Rosario dal Vomero di Napoli, ma adesso newyorkese con Ribalta, è ancora qui con me ai microfoni di America 24, un sogno in definizione. Rosario, scelga lei la canzone del giorno, faccia un po' sognare i nostri ascoltatori. Vabbè, cosa sceglie? Visto che abbiamo parlato di sogni, del rapporto, della relazione tra me e mia moglie che mi ha portato qui in America, all'inizio ricordavo, scherzavamo sempre con Only You dei Platters, dove io appunto la prendevo in giro, dicevo Only You, you make my dream come true, in un inglese ancora più disastrato di quello attuale, e niente, quindi è rimasta poi un po' la nostra canzone nel tempo, e quindi Only You. Only You dei Platters, ottima scelta. Thank you.